sono delle belle bestioline, 200 euro costano. Ho visto la fotografia, è nuovo, almeno se è quello che corrisponde alla fotografia, è nuovo fiammante. È nuovissima quella radio, so di chi è, ed è nuovissima, ed è un affare. Per quel prezzo è un affare, perché la radio è nuova, è bella, ordinata, pulita, non le manca niente, è tutta in originale, il prezzo è molto interessante. Capito? L'ho mandato anche a Riccardino, Olimpio. Nel caso le salti in testa di prendere il Cobra, può prendere tranquillamente quello, perché almeno sa che è nuovo, capito? Break. Sì, avanti Break. Buonasera, Salino Alfa 1. Ciao Claudio, Roberto e Riccardino, se c'è. Avevo sentito che c'era anche Riccardino. Dove sei Natalino? Mia comune di Natalino, ciao Natalino. Ciao bello bello, e beh, allora, cosa mi racconta? Cosa mi racconta? Era in campeggio, a quanto sa. Cappa, beato che te che lo puoi fare, a casa sono Roberto. Ma perché sei così forte rispetto agli altri giorni? Perché mi sono preso una vitamina. Sto usando l'altra radio, quella che ha, quella MP5 più 4, 9.10 stai arrivando, va bene, meglio di prima. No, qua è 9 più 20, infatti ho detto cacchio, da 9.10, 9.15, sei 9.20 adesso, infatti ho detto, o sei in movimento, in macchina, buh. Io mi assento un attimo. Sei più forte di Riccardino adesso, Natali, lo sai. Cosa? Riccardi, mi dispiace, cacchio, ti ha scavalcato, Natali. Guarda adesso sono ancora più forte. Adesso sei 9 più 25. Bene, va. E cosa, tra parentesi, che cosa stai utilizzando? Già ti telefono, l'omologato. No, il resto, le iniziali, dimmi le consonanti. Non è un resto, no. Questo è tutto senza arresto. No, c'è la regolazione dei watt regolabili, è un bel radio quello. Già va bene, già va. Sì, 9.20 anche qua, sì. Normale, con l'altra radio arrivi 9.5, con questo arrivi 9.20. Non ci compresa che non tratti niente. No, già sta arrivando, il giorno 5 mi arriva l'omologato, il 3009 mi sono comprato, nuovo. Così almeno ne la finiamo. Natalino! Oi! Con quanti watt stai uscendo? Perché io sto uscendo con 5 watt, è per questo. Non lo so, non c'ho lo strumento attaccato. Questo è il volante e poi lo devo togliere, capito? Non ho attaccato nulla. Sicuramente tu stai uscendo con più di 5 watt, per questo. Natalino, c'ha un kilowatt, ha preso la corrente dal palo della luce vicino, da di gridi. Mica cacchio, Natalino, ci vuole corrente per far andare quella parata. Ma perché da te passa Natalino, qua passa Riccardino? Cazzo, per forza passa Riccardino, se ha fidichito Riccardino è logico che nei tuoi confronti passa Riccardino. E Busi si fa vedere la campagna a gas d'arrivo 9.30. No, 9.25 arriva Riccardino, tu sei 9.20, non avete tutta questa differenza. Sì, Riccardo, sei più forte tu, vai. Da Roberto magari più forte Natalino, magari c'è qualche varco, capito? Però qua sei più alto tu, di poco, ma sei più alto tu. No, qua era sotto Riccardino, Natalino l'ha superata. Vabbè, c'è da dire che c'ha 3 watt quel baracchino di Riccardino, dovrebbe fare le prove a parità di potenza. E lo sentivo sotto, nel sottofondo a Riccardino, no, Natalino è più forte, adesso è quasi 9.25. Va bene, che mi è arrivato un messaggio, devo uscire, quando a ritirare del materiale. Ci sentiamo più tardi se ci siete, ciao a tutti. Ciao Claudio, avanti Riccardo. Ciao Claudio, alle prossime, a più tardi. Vai Natale. Aspetti, mando via WhatsApp la situazione. No, stai andando benissimo Natale. Riccardo naturalmente non utilizza quello che sta utilizzando tu, se no guai. Lui quando ha attaccato quell'altro giocattolino arrivava a 9.30, ha spaccato. Superava anche a Luca, era il segnale più forte. Aspetta che provo ad attaccare invece. Cosa attacchi? Due quadretti, cosa metti? Un cappellone? Un quadro. Adesso attacco la vitamina che ne ho carenza. Ma c'è sempre quel giocattolino per aumentare, Ricca? Sì, ma non vale niente, lo provo adesso però. Stai attento a non fare danno, mi dai, però solo per curiosità. Ah, eccoci qua. C'è Natalino, come l'ascolti tu Gianni a Natalino? Vedi ogni segnale che c'è. Prova Natalino. Guarda già, magari adesso ti arrivo un po' fortino, boh. 9.25. Riccardino, quanto ti ha arrivato? A me e lui adesso passa Riccardino comunque. Prova Riccardino. Aspetta che sta attaccando la vitamina. Si è incazzato perché l'ho passato. 9.25 e quasi 9.30 sei Natali. 9.28 dai. Ehi, già lo so. Allora io ne sto uscendo con Giulio da fare gli ex ad Utanda un dopo l'altro. Sai che mi avverti? Così facevo qualche collegamento. Non sapevo manco che in frequenza. Ehi, già ero in frequenza. Magari se non mi senti vuol dire magari sono all'ascolto, boh. Tu prova a chiamarmi. Dimmi Riccardo. Tutto fischi, sì. È migliorato di spagnolo, ma sei tutto a fischi. Uguale, sacca tutto che fai danno, Riccardo. Tanto tu sei. Ciao Anto, aspetta, un messaggio mi è arrivato. Antonio, mi ascolti? Occhio al perizoma! Che chiama? Sono Italia. A casa mia sono. La provincia di Lecce. Oh, ma quello col display tutto digitale. E adesso te lo mando. Oh, guarda come fotografie, è bellino comunque come baracchino. C'ha tutto il coso, c'ha il rosmetro, wattmetro e indicatore di segnale, tutto digitale, quello lì. E quei numeri che ci sono sotto cosa sono? 555N ti appare sotto, così. No, non appare niente di quello che stai dicendo, aspetta un attimo. Aspetta che stanno chiamando da fuori, vediamo un po'. Attenzione, Lecce! Campa, dai! È la stazione Gianni Doppio Nuda, QTH di Sassari, Nord Sardegna. Avanti, un piacere! Campa, Sassari! Vabbè! Ok, Campa, sei la stazione... collega, mi dispiace ma ti ascolto bassissimo, a volte il QRM ti copre, dai, mi dispiace, ti saluto la città di Sassari che ti supercordializza, avanti, l'operatore Gianni Doppio Rullo. Roberto. Sì, bello, bello, già lo conoscevo Riccardi, bellino, ci vuole un'antenna, però mettiti con l'antenna che c'hai e vedi, ti togli qualche soddisfazione, dai. Natalia, già è bello, anche se stavo guardando un altro modello, forse era un po' più evoluto di quello, col display tutto digitale, un sacco di cose ci aveva in più. No, questo è... prova a leggere a fianco, capito? A fianco c'è una scrittura. Ma quello si da quanto arriva di vitamina? Bisogna che gli attacco il wattmetro e lo vedo. Questo è tutto con le cosce aperte. Roberto, ti volevo chiedere, con il lineare attaccato quanto arrivavo? Sì, è come Natalino, 9.25, però è tutto sa, tutto fischi, non va bene, dai. Bisogna fare delle operazioni di per rientro in radiofrequenza, ci vogliono dei componenti. Lascia perdere, se no sfasci l'apparato. Ok, ci sentiamo più tardi, che adesso entro dentro casa che stanno chiamando di nuovo. Ok, io interrompo qualche minutino, dai, ci sentiamo tra poco. Un attimino, vai, doppio room, Natalino e Antonio è entrato pure, avanti. Ehi, ciao Roberto, ciao anche a Riccardino, dai, ci sentiamo dopo. Avanti, Natalino. Ciao Roberto, Riccardino, ci sentiamo alle prossime, avanti Antonio. Ciao Riccardino, ci sentiamo alle prossime. Come canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Brecco, brecco. Ehi, Futidini, si mi dicendo aveva collegamenti a Futidini, adesso è normale. Mica ti ho fatto il filmato. Il filmato? Sì. rizoma. Stavi quando ti arrivo lì. Fai. 2-3, prova radio. 9-20. E io a tali cosa ti arrivo? 1-2-3. 9-60. Sta salendo la propagazione, fra poco chiama. Qualche poco fa, quando stavamo facendo 10 con Giulio, ci siamo messi a fischiare così a fianco e rompevamo la scatola. Ma tutti i dini, lascia fare il bici. Tartarino, ne hai visto i messaggi? Ehi. Due messaggi ci sono audio e poi una fotografia tua, non è un filmato. Ma cosa? È un filmato, il filmato c'è l'apparecchio, cazzo, si vede tutto? No, allora non mi è arrivato, vedo a te con le cuffie e bu. E da parati, aspetta. Attenzione, canale 10, ascoltate l'isola sarda che chiama, cambio. Non vogliono rispondere, ma gli assistenti sono cani morti. Oh Gianni, la radio è amplificata, Questa che stai usando tu? Che sto usando l'MB più 4. No, non è amplificata, è bella sì, ma non amplificata. Prova a aumentare. Guarda, adesso. È un pochino, non spinge più di tanto, Natalino. Ti ho sentito l'MB più 4 un po' più forte. Già lo so, perché questo è normale, è il vecchio, però è normale. Ah, e non ho già, è bella la radio, è bella presente. Cappa. La chiamata laterale ne ho fatto di ex, a tutte le parti. Sì, infatti, anda bene Meda, adesso però è normale, mi. Ehi, ho capito, però esce bene, la radio è bella. Cappa, ok, anda bene Meda. La voce tua senza camuffare, ecco cos'è. Eia. Attenzione, attenzione canale 10, ascoltate la Sardegna, cambio. A 60 euro 9 questo mi arriva, blu. Guarda, mi sono arrivato. 9.20, 9.30 fuori. Sono arrivato a Torino 9.20, 9.30. Eia. Può essere. No, se mi arrabbi su controllo, visto è. Ma arrivava anche lui 9 qualche cosa, dai. Però ha detto che lui stava uscendo con un centinaio di vacca. Ma infatti anche con 4 watt ci arriva. Insomma, c'è qualche parte di scappare. Quello sì. Se ci sono sovrammodulazioni e cosa riesce a passare. Manda. Ciao cara. Adesso faccio il segreto. Ho scavalcato anche a Riccardino. Dimmi tu se attacco un 747. Con 100 watt ne dovrei fare di casino. Sull'otto c'è propagazione. Come? Sull'otto c'è propagazione. Ma è una M. Beh allora. Comunque sta salendo anche qua adesso. Ma l'abortante di Giappunese. Thank you. E Artù, guarda la radio com'è adesso, che sono col microfono normale. Sono buono, Natale. E allora è da Guiglio, da. Sono anche bene. Ehi, stavo dicendo, adesso il giorno 5 mi arriva il Superstar 3009 omologato, e così uso quello e boh. No, cosa? Non ne avevo di Superstar. Ma l'ho comprato nuovo e mi arriva da internet, capito? Così ne ho due omologati. Questo è il 3009. Non ne posso mettere stufa né niente, devo mettere l'omologato e blu. Già lo sai perché cosa. Solo con l'omologato posso uscire. E infatti il 3009 c'ha 40 canali e boom, le bande non funzionano, è bloccato da dentro. Omologato è 40 canali deve avere e boom. Funziona AM, FM, SSB, tutto, però più di 40 canali non puoi avere. E cosa fai? Più impresa venini. E infatti, no, non mi va di disturbare, dai. Adesso sono basso, basso, lo stesso puoi proprio non disturbare. Cioè, disturbi già con l'omologato, mi. Gli sparisce il coso della televisione a quelli. No, l'antenna si devono cambiare, non è il televisore, no, è le antenne che hanno marce. E no, che sono i rubarazzi a fianco, non so da me. Ma così mi rampo pure l'antenna mia, che l'antenna mia è l'antenna, l'antenna di chi su chi di ciuibu. Non andare. Se no è peggio di andare al buio, non paghete. Ma io sono sicuro che quelli quando cambiano le frequenze già se ne stanno cominciando ad andarsene, che stanno facendo prove e provette, perché anche qui mancano, no? E io me ne accorgo da quello, che stanno per andarsene. Quando se ne vanno non vedono più un cavolo quelli. E infatti ho proprio l'impressione che il baracchino non c'entri più nulla. E infatti io me l'ho messa nuova, l'antenna, però non potevo salire sul mio tetto, che tutto rotto, tutto messo male. Se io salgo e rompo qualcosa mi va a sbagliare tutto a me, non mi conviene. E allora ho chiesto il favore a un inquilino di quelli di piazzarmi le antenne mie sul palo suo, che era lungo. Ha preso e me le ha piazzate, gliele ho date già al fronte per piazzare. Mi l'ha piazzata e la recupera la televisione io, in tutti i canali. Cosa? Non ho capito. Io ho capito, baracchino solo e blu. Ma è bassa, compreso, dai, no, non rende come dovrebbe. A salirla è un casino qua, tu non l'hai vista come te, è un macello. È meglio che tu la veda e vedi a vedere, non è come ti dici tu. Ma non sai la fatica che abbiamo fatto per salircela. Erano 3 o 4 minimanni, dopo della piazza così, nuove buccia di giogano. Sì, già lo so, se fosse stata più alta rendeva anche di più, io ho problemi di ricezione proprio perché è spunta 1 metro dal tetto, non di più. Però il tubo è 1 metro, vorrebbe alzare almeno di 2 metri per andare bene. E io non ci salgo su quel tetto, non sai che cazzo, dopo si rompe qualcosa e fate ne bagatto, sarà capito di a me. Non diminuire i capoli, Dina. Non sto lavorando, e né nulla, dimmi tu. Ma andrà bene Meda. Gianni si è avviato, boh. Sarà e tu ripiace a fare di ex, mi e boh. Tranne che fa pisare noi. E allora sarò pure io e si rabbia in come di vostra mano. E qualche volta salgo. Come? E allora, sopra 12 metri di palo e che se ne sta ridendo. E per non bisticciare con i miei fratelli, capito, vai. Per poco finiamo alle mani l'ultima volta. E rompicoglioni sono. Per non compromettermi non ci sono salito più, si può dire. Perché sennò dopo giro di gabu e posso va a essere un sada, invece così sono tranquillo, non mi disturba nessuno. Ehi, già lo so quello. E il piccolo è, non è tanto l'altro, no, è il piccolo che ce l'ha con me. Non so cosa cazzo voglia, boh. La di mi rompere le balle nel gabu di cacciare con i denti, Antu. Già ci vediamo poco, meglio qualche volta già salgo, adesso mi devo mettere a posto le zanzariere per tenere aperte le finestre in estate, me la metto a posto, mi faccio un po' di pulizia con mia moglie e a che seminata si lavaremo a fare. Salire per il questo vivere mi. Infatti così la avrà già di. E infatti l'idea è quella, adesso me la metto a posto, faccio un po' di pulizia, faccio e quando voglio salire salgo, non è che mi rompano le balle, ognuno si sta nel suo, molto ci vuole. E infatti anche Seminata con amici me l'aveva già fatto. È che non ce la faccio a camminare, adesso io la macchina ce l'ho lontano da qua, no? L'altro giorno da dopo il posteggio a arrivare qua so che arrivi su moccio perché mi viene un dolore alla gamba che non posso stare, mi sono dovuto sedere sulla panchina del coso, della fermata del tram, a chi non ve la passivo più. E infatti poi c'è un amico che ha detto che mi aiuta. Non è che per buon gattarti a farli ci zanzaria, ma anche da curiva con una bestia, è giusta vera a Gaza. Andiamo tutte e tre, cusciremo mattana tutti. Sì, infatti. Aiola, ditemi come sto uscendo. Ma a me, telefonami a tu. E così me la dici in privato. Come sto uscendo io già, col microfono normale? Stai uscendo bene, dai, stai uscendo bene, è forte, è abbastanza forte. Qua ti sento anche più forte dell'altro apparecchio. Adesso sono con 3009, come va? Benissimo. Kappa, sto uscendo con pochi watt anche. Ehi, vabbè, già andrà bene. Antonio, a te come va il 3009? Antonio sta facendo il numero di telefono. Non me la contatti giusta, con queste cose private. Sto scherzando, Antonio. Specifica. A quel il telefono già. Gianni Ghildu. Oh già. Ma pure Gianni si è avviato. C'è qualcuno sul 10? Marina, ci sei? Marina, mi senti? Marina, ci sei? Sono qui. Parla un attimo. E che cosa ti devo dire, scusami? Lavate ce li hai piedi. No, nulla, ma col culo. Bene. Cosa? Hai fatto bene, non bene, di più. C'è bene comunque, dai, va bene, dai, vai se devi andare, sono le 7, ciao, ci sentiamo dopo. Ci benissimo, una bella voce squillante, ci tutto bene. Posso spegnere allora? Anche tu, però aspetta che finisca io di parlare, se no riprendi la telefonata, Posso spegnere? Spegni. Ok, ciao. Ciao. Ma quando ti senti, avete la divisa, mica è coccomani in Natalino, mi. Io ti dico che il corpo umano. Aspetta, lo c'è un bifino che. Adesso sta provando questo risparmio 500 e non evoca bene. Ho detto fai bene le connessioni perché devi uscire bene. Mi torna, tutto a fruscici. No, c'è qualcosa che non mi quadra. Guarda che ci sia qualche filo da invertire, perché non sempre sono uguali i fili, cambiano, capito? Quella connessione che hai trovato va bene al tornado, però non va bene all'altra radio. Tagliane tutto, scusa, tagliane tutto e te lo fai nuovo. La connessione nuova per la radio che lo devi usare, lo lasci su quella radio. Già sono qua, non per molto che poi devo uscire a portare il cagnone. Mamma mia, come sto! E Azzardo non c'è? Ah, lui, Azzardo non c'è. È uscito con cosa? Con cuore. Ah, assieme sono usciti. Attento, bim bum ma. Hola! E dove vai? Buonas tardes, mio hermano! Ma passa in AM, però, che sei in FM! Passa in AM! Ma a me stai dicendo, Claudio, sono in AM io! No, tu non sei in AM, tu sei in FM! Oh, è in AM, Claudio! In AM? Perché sto facendo così? È una... è Claudio, il filo del corso ha spostato! Sembra spostato di frequenza! Doppio rum, sei tutto spostato! Guarda, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. No, io ti sento spostato. Anche tu, Luca. Oh, prova già. Luca, come sto uscendo? Guarda, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. È vero, sei spostato. È 4-40, non imbaglia, Sei spostato. Sembra, che sei col clarife tutto girato da un'altra parte. E chi è? Cos'è Ducato, Gianni? Cos'è Ducato? Azzardo, tu. Azzardo, ci sei? Capè. Vabbè, tu. Ma infatti te l'ho detto che è più 5, non si sbaglia con 4,40. Avevo il clarife spostato, Claudio, però io in AM non pensavo che facesse lo stesso effetto delle bande laterali. No, Gianni, ti insegno che le bande laterali, il clarife lo usi per la ricezione. In AM se lo sposti vai a più 5 meno 5. Vabbè, quello già lo sapevo. Adesso bene va. Sì. Che se mi sono casuzzato. C'avevo il clarife spostato perché era in banda laterale, la vita, e stavo parlando in banda laterale, dai. E appunto, in banda laterale si usa perché devi fare la centratura, proprio ricordati quando torni in AM e metterlo al centro, se no ti dà più 5 o meno 5. Ehi, ehi, a capo, infatti c'è scritto più e meno, hai ragione. Ehi, conosco quella radio. Ma sono tutte così, anche il Cobra ce l'ha lo stesso. Il Cobra c'è al fine corsa, non c'è il clarife, è diverso, però fa la stessa funzione. E beh, tutto a posto. Io diciamo che in linea di massima tutto procede bene, grazie a Dio. Mi dispiace che domani è lunedì, però va bene lo stesso. Vabbè. No, ma non c'ho tante cose da fare, un po' di cosette. Di cosette, poi martedì di nuovo festa, quindi niente, infatti io sono venuto andare a Olga per fare i piedi ai giovanotti sono più maneggiati, proprio perché c'era lunedì appunto questa festa, sono andato venerdì, proprio questi piedi venerdì, così ha deciso il grande capo e così ho fatto. Io guarda, ho lavorato per 40 anni e per 40 anni ho percepito lo stipendio sempre puntuale, quindi chi dovesse collaborare con me non c'è un problema, figurati. Qualcuno addirittura non ha manco voluto il bonifico, quindi come la richiesta glielo ho portati in cash, quindi non ha più problemi. O perlomeno dove collaboro io problemi non ce ne sono, per il momento poi si vedrà. fate voi che sto dando un'occhiata al telefono di Claudio, dai. Fate vobis. Intanto adesso, visto che sono vestito, vi ho portato il telefono a Luca, che ne è giù in terra e si è fatto a pezzi, e quindi adesso ordina i pezzi, lo sistema, vado a portare il piano, così mi tolgo le gambe dai piedi e mi rimetto in sesto. Lui, c'è anche Tattalino, qua, ma ne riprendi. Oh, Natalino, se la mangiamo. Cazzo, vale milanesi. I milanesi mangiare 7:30. Sto mangiando. Sto smontando una lampada. Ah, non sei di Milano tu che mangi alle 7:30, né? Comunque non è sbagliato, Claudio, se vogliamo, perché hanno il tempo di digerire, invece noi mangiamo tardi e poi andiamo a letto e non digeriamo bene. Cazzo, già, se mangio il risico, a ridere non ti voglio dare la mamma. È questione di abitudine, anche mia zia a Genova lo stesso. Un anno sono andato a trovarla, ho passato 4-5 giorni e cazzo stavo impazzendo. Risetti, puntuale, ma io perché lei parla mezzo porto torrese e mezzo giallorrese, capito? Quindi io, mi boh, che è pronta la cena, zia, cazzo mi sono le 7, ma come si fa? Cioè io devo uscire tra un po'. No, qua si cena a quest'ora, cazzo rivedi, con mia nipote, i miei nipoti cazzo ci dovevano fare il panino. È una questione di abitudine proprio, però diciamo che non è sbagliato, perché hanno tutto il tempo di digerire e vanno a letto che hanno già digerito, invece noi veniamo all'ultimo momento, io mi ci metto in mezzo e poi magari andiamo a letto, ci sdraiamo nel divano e non digeriamo come dobbiamo digerire. Poi la mattina come ti tieni bene? Già, io non ceno molto tardi, 8:30, a volte le 9, 9:15, 9:10, 9:30, però io non mi curico alle 11, no? Io mi sono curicato che alle 3, quindi perciò invece c'è gente che mangia tardi e si curica presto, capito? Prima quando andavo a lavoro lo stesso, mi curicavo mezzanotte e mezza, alle 5:30 se non 4 mi alzavo, adesso mi alzo tardi e mi corrico tardi. Oddio, mi alzo tardi alle 8:30, dai. Non c'è problema, stamattina mi sono alzato alle 8:30 ad esempio. Va bene, dai, vi lascio, vado a portare il cane e ci sentiamo dopo se coincide. Vai a tu. Ciao a tutti, da. Ciao Claudio. Ciao Tattalia, dopo. Se coincide sì. Ehi là, ciao Claudio, a dopo là. Oh, a tu, con quanti batteri stai uscendo? Ah, ecco perché. Adesso mi sta arrivando fondo scala qua. E addirittura questo apparecchio già lo sai come c'ha lo Smith. Però è avaro questo qui, non è che ne regala di cose, ma è un bel avaro pure. Cioè ti dà 10 PS in meno questo apparecchio, infatti io quando do i segnali faccio i conti 10 PS in più perché è così, oramai ho appurato. Ah no, tu mi sei arrivato in fondo scala, di sicurezza. Ed è tirchio questo qui, è vero che è tirchio, quando segna Santiago 2 e Santiago 5, capito? Santiago 2, Santiago 4, là. Però, cazzo, cioè, tu stai arrivando a fondo scala. No? Ma io non ho capito ancora dove stai. Ah, ho capito, dove ci siamo trovati contando le cosce di pollo in offerta. Ah, ho capito. No, dove c'è il veterinario? Da quella parte, sì, dentro, quella via. Ah, ho capito. Cava cava, ha giù capito. E io vado là col veterinario lì. E pizzeria, sì, Piero Mensole. E ho capito dove. No, il mio è bravissimo, Fracassi è bravissimo, è anche molto onesto. Non ti fa pagare tutte le volte che vai, per dire, se lo visita ti dà una cura, poi ti dice venga fra una settimana che lo controlliamo. Vai dopo una settimana non ti fa pagare nulla, capito? Invece via Pascoli mi faceva pagare, ogni qualvolta andavo erano 70 euro minimo. Ah, ma maschio per... Sì, no, è femmina. Ma... Vabbè, io la mia l'avevo sterilizzata, mi ha durato 19 anni. Vabbè... Certo che sì, ma non si fa avvicinare dagli altri gatti quando è sterilizzato. Perché quando sono castrati diventano così, diventano tipo zittilli. E adesso con voi come tranquillo, grazie. Gli animali... Uia, non sono come una macchina, dai, se si ammalano vogliono curarti. Io, cioè, questo mese ci ho speso 120 euro per comprargli dei medicini. No, perché sono dei richiami ai vaccini che hai fatto, capito? No, io praticamente gliel'ho fatto l'anno scorso e vale per 2 anni. Quest'anno non glielo devo fare, il prossimo anno glielo devo fare perché me l'ha fatto bivalente. Beh, lo so, è un casino, un bel casino. Io sono all'opera, sto prendendo un telefono, dai. Non posso stare con voi, che ne sono? Dai, levo solo il tappo e basta, dai, poi riprendo. Ho capito, prendo... No, per quella sempre. No, vogliamo altro. Buona sapersi, fammi sapere dove li compri. Va bene allora, ma li... se li ordini qualcuno in più, quanto costa? Solo! Ma sei lì in varia. Sì, me lo posso immaginare. E adesso vediamo, ora. Vabbè, già, riprendi tu, Antonio, dai. Sta con questo tappo, non ti quasi aperto. Certo. Perfetto. Natalino sta aggiustando la lampada, non è? Sta diventando il genio di Aladino della lampada. Aladino. KK. Mi sono associato, mi ha detto che cazzo ero fuori frequenza, me ne sono accorto, ero in banda laterale, deve essere un toccato il clarifer, ma se mi sono spostato, guarda, non sapevo che da M poteva spostarsi, vabbè, forse perché non lo uso mai, usavo quel tasto 10 kg perché non lo usavo mai, dai. Certo che non è poco, ma mi stavo spostando probabilmente per trovare a quello lì, perché era fuori frequenza l'altro. Sì, è così, come il mio. Ma probabilmente toccando uno ho mosso l'altro, capito? E allora? Lo so, cava, e vabbè, te ne so te che non abbia niente, se no si rifugia far lungo. Già che ho lottato con questo microfono, guarda, per carità di Dio, ed era la capsula che stava partendo, quanto... No, stava partendo, non uscivo di radio a volte. non usciva, cioè usciva però si abbassava, capito? Cioè la radio per dire è forte e poi di colpo si abbassa, capito? Così faceva. Ho cambiato batteria, ne ho fatto un po' che dico, detto, ma è la batteria che sta partendo, questo e quell'altro, niente. Pulito i potenziometri, smontato, buttato l'aria dei potenziometri, messo il CRC, tutto quanto, e niente. L'ultima cosa che dovevo fare era cambiare la capsula, l'ho cambiata. Da quando ho cambiato la capsula non l'ho più fatta. Lo so, però mi ha fatto dannare, capito? Mi stava venendo l'Alzheimer, non ci credi? Perché poi, cioè, provi, pensi di aver risolto, entri, no, lo sta facendo ancora, dopo che hai smontato tutto, poi mi puoi capire, no? E questo che microfono è questo che stai usando? Beh, perché non sta andando? E come mai se metti l'amplificazione cosa succede? Fischia. Sarà qualche falso contatto anche. Ah, c'è il tuo lavoro, cazzo, e lo fai per gli altri, lo vuoi far battere. Quello già un'altra cosa. A tu abbassa appena appena il mic gain. No, adesso è chiara, adesso è chiara. No, ma non è perché era forte, no, perché stava distorcendo. Stava dicendo così anche. Comunque domani vi porti la scheda allora. Ehi, qui quello di Claudio l'ho già aperto, gli ho levato il tappo e pazienza ci vuole. Se non stai attento è un casino, questi telefoni sono veramente di balle. Cosa si è rotto? Dice che è caduto in terra e si è rotto il display. Ah, quindi era sostituire. Io c'ho un S3, cazzo, nuovo, è più nuovo di quello che sto usando, ci credi? Perché mi ho comprato subito questo qua, come se usciti Huawei. Ce l'avevo nuovo, quello lì mi sono comprato Huawei, quindi ce l'ho sempre di scorta. E ogni tanto si parlava, infatti l'ho riformattato tutto. E adesso sta andando bene. L'ho usato... quando è che l'ho usato? Che avevo dato il telefono a Luca per cambiarmi la batteria, ecco. Per cambiarmi la batteria e usavo quello lì. Capito? Sta di nuovo pa. Adesso va bene, adesso sta andando bene, dai. È come quando tu c'hai il mic gain troppo alto. Ah, il Pio 5, mettili quello che ti ho venduto io. Cos'è? Ma cosa? È tratta di cosa? Cosa là? Oia! Io, non lo so, perché se volevo mettermelo in macchina, ma non lo so, non so manco se farlo, perché poi ho detto, se se ne va via la gente, non vedi nessuno, cosa vuoi? Poi io in macchina, prima lo usavo ad andare a Porto Torres a ritornare, quindi ci parlavo, sia all'andata che al ritorno. Adesso cazzo non viaggio più, cosa, tra me e a Giubbisa, cosa me ne voglio? Buco non ne voglio fare, e l'unica cosa è mettere una stampa per fare quel coso nel cofano di dietro. Lo so, ma bisogna fare l'attacco elettrico, perché con l'accendi sigari non va bene, ho provato ad attaccare la parete, fa... Boh, non ho mai fatto caso, non lo so. Ma dove? Nel cofano motore? C'è un alimentatore? Sapevo. Può darsi pure, non ci ho fatto caso, può darsi che a prenderlo me ne accorgo anche perché ci ho messo la gabbia del cane lì che riempie tutto, quindi non si vede un capo. Se c'è e dove la trovi questa presa di alimentazione? Dove ce l'ha? Là. Capito. E se no si può pigliare a voluta la luce e farlo pagare, intanto va a 12 poi. Si accendono solo quando si porta a pagare, funziona, buh. Io riprendevo dei fusibili nelle altre macchine. Per dire, nel 127 l'ho preso ai fusibili, ma ce li avevo a portata di mano, capito? E questa qua è il casino, sai cos'è? Che non c'è posto dove passare il filo, ho già controllato. Non si vede nessun buco per passare il filo, capito? Così. Adesso vediamo cosa fare, cosa decidere. Mi sono comprato già la base magnetica, cazzo, ce l'ho ferma, dovevo metterci la mini turbo, e invece poi non è arrivata da Fusaro, mi ha detto che la ordinava, poi non è ordinato, costa 60 euro, meno costa una fesseria la mini turbo. La mini turbo della Rem. Allora, la turbo 2001 la conosci? Stesso attacco della turbo 2001, però è bassa, è piccola, rimane su 75 centimetri. Esatto, siccome la PDC Minox, che si equivalgono, dai, sia la PDC Minox che con quella lì si equivalgono. Ma non volevo comprare la PDC Minox, va bene, cazzo, è un'antenna che spara forte, anche se è piccola, ti sentono forte a tutte le parti, due segnali in meno della grande. L'ho consultato, fare antenne tipo la Turbo 2001, tutte quelle antenne lì. Ho capito. Hanno più tenuta di potenza. Vabbè, a casa adesso già la stazione già è a posto. Adesso devo pensare, sono arrivato a 9.30 a Torino. Dove? Su, sì, su quel sito dei cibi. Criminal! Criminal! Francesco Criminal, quello che fa le antenne, che fa la Game Master, che è quello che ha proprio ideato il prototipo della Game Master. Non è ben bravo, ci sono anche un po' di modifiche che faceva, lui non nasconde nulla, le mette anche, capito? Telemanda, se vuoi, se le richiedi telemanda, non nasconde nulla, lui lo, le fa però non nasconde nulla, dice se sei allo stesso grado mio, le sai fare anche tu, se no ti rabbigli in luce. Comunque poi io ho trovato difficoltà a trovare quello per abbassare la potenza, il relè non era il VR13 ma era un altro, c'aveva un'altra numerazione, ho controllato con la fila, non ne stavo uscendo gli occhi, poi ho detto aspetta mi guardo il service e vediamo un pochettino come posizionato, e ho visto che c'era il VR16 a fianco e questo qui era a fianco al VR16, perché questo non può essere, anche se non è il VR13 dovrebbe essere questo. Ho provato piano piano, ho visto che si abbassava la lancetta di watt, allora l'ho abbassata a 3 watt e mezzo, modulati sono 4, no ne ha 2, ce l'ha. C'è il PVR Lite e il PVR, sono due, c'è il 16 e il 13, che dovrebbe essere il 13 e poi non è il 13. Il 16 è quello che regola quelli bassi. Aspetta che ti dico come si chiama, no? Te lo dico... Allora, il VR16 è low power, invece il VR13 è IGT power. E praticamente il VR13 da me non esiste, è un altro numero, il VR75, una cosa del genere, un numero alto e comunque. Adesso non mi ricordo bene cosa sia, però non c'è VR13. Che ve ne esci di luce, Zecchetti, ho detto ma non è possibile, le case sono tutti qua in fila, i trimmer, poi c'è VR28, quindi non sono da toccare. Sono oscillatori, USB, LSB, L28, capito? Cave, oscillatore, OSFET, quindi in AM, eccetera, eccetera. Sono da toccare solo quelli di sopra. Quelli di sopra che... c'è il VR13 a fianco al VR16, non c'era il VR13 ma ce n'è un altro. Io devo intendere ma così che è il VR13. Che ma mi ha mandato Marco. Marco Condor me l'ha mandato del 3006, del 2009. Cioè. Però siccome questi qui sono gli ultimi tipi, perché io l'ho comprato da Eugenio questo qua, e Eugenio l'ha comprato pochi mesi fa, capito? È ancora in garanzia questo qua. E praticamente diciamo, il nylon non è ancora attaccato, l'ho attaccato io, non era un adesivo. Non c'ha un grafo, niente di nuovo nuovo. E praticamente degli ultimi che sono usciti, capito?